321. Testicciuola d'agnello. Per mettere in umido la testicciuola d'agnello, non fate come quella serva a cui il padrone, avendo detto che la dividesse in due parti, la tagliò per traverso. Fu la stessa brava ragazza che un'altra volta aveva infilato i tordi nello spiedo dal di dietro al davanti. Tagliate dunque la testicciuola per la sua lunghezza e così come stanno i due pezzi naturalmente, metteteli a cuocere in un largo tegame. Ma fate prima un soffritto d'aglio, prezzemolo e olio e quando avrà preso colore, fermatelo con un ramaiuolo di brodo, buttata giù la testicciuola, conditela con sale e pepe, aggiungete a mezza cottura un pezzetto di burro, un poco di sugo o conserva di pomodoro e tiratela a cottura con altro brodo se occorre. È un piatto da non presentarsi ad estranei, ma per famiglia è di poca spesa e gustoso. La parte intorno all'occhio è la più delicata.